Intervista numero 6, progetto WWF, a Roberto Valeriani. Ho il grande piacere di parlare con Roberto Valeriani, un po' della sua esperienza come musicista e all'interno del comune di Voghera. E ho il piacere di passargli la parola. Grazie, grazie mille. Comincio come ci siamo detti un po' dalla mia esperienza e dal mio lavoro che ho amato moltissimo e amo ancora tuttora. Che ho cominciato molto, molto presto, avevo 10-11 anni, e questo Don Primo Cristoforo, che era il nostro prete, ci indirizzava, lui, perché lui è un musicista molto bravo, organista molto bravo, e gli piaceva la musica, e chiaramente anche lui dirigeva la banda di allora, faceva le processioni, ci teneva anche lui. E aveva questo pregio che diceva: tu, vieni, cominciamo a fare musica. A 10-11 anni era una cosa un po' strana per noi, perché avevamo altri indirizzi. Cominciamo a fare musica, vabbè, dicevo io, ma le ho già parlato a tuo padre che giocavano a voce insieme a biliardino e al bar, perché allora andava bene anche questo. Gli ho già parlato, ho detto che è contento. E da lì è cominciata tutta la mia storia musicale, la mia vita musicale, e ho cominciato con questo strumento che è l'oboe. E poi, e chiaramente, mi sono diplomato col professor Giovanni Bigotti, grande persona anche lui, perché allora, secondo me, ci saranno anche adesso persone professionali molto brave, ma anche umanamente molto, molto disponibili. Questo insegnante veniva a casa mia a dire come mi comportavo, era lui che veniva allora a casa degli allievi per dire quello che succedeva, eccetera eccetera, però ci teneva moltissimo. Quindi si faceva lezione a casa propria con il professore che veniva lui, a trovarti? No, lui veniva a sorpresa, veniva a casa a dire a mio padre come funzionavo e come andavo, se studiavo, eccetera eccetera. Okay. Fortunatamente diceva sempre che studiavo, perciò non succedeva niente, in famiglia erano tutti contenti. Usava così allora. E mi sono diplomato con questo insegnante, cioè è cominciato la mia vita professionale nelle varie orchestre, una a Milano e l'altra definitiva a Bologna. Sono rimasto 35 anni a fare il primo oboe. Importante, molto bello, mi sono divertito, come ho detto prima, ho fatto il lavoro che desideravo, e questo è molto importante, e anche fortuna, perché al giorno d'oggi capisco che è molto difficile, eccetera, eccetera. Però io ho avuto la possibilità di fare questo. Bene, questo è un po' l'iter della mia professione. Qual è stato il tuo primo incarico professionale nella musica? Sì. Qual è stato? Ah, tanto niente, a Milano, ho vinto il concorso a Milano, Angelicum, ho fatto un paio d'anni a Milano. Dopodiché ho vinto il concorso a Bologna, sono arrivato a Bologna e da lì non mi sono più spostato, perché praticamente mi sentivo anche a casa mia, oltre che a un'orchestra importante, ero anche un po' vicino a casa mia. Okay. Ho sempre abitato poi a Voghenza, non mi sono mai spostato. Si tentava di andare a abitare là quando mi ero sposato, ma niente, abbiamo fatto una casa qua, perciò sono rimasto nel mio antico paese. La patria rimane sempre qua. È rimasto questo, e allora andavo avanti e indietro, ho fatto una vita un po' particolare, però ripeto. Come passare da una piccola realtà come il comune di Voghera a la vita delle grandi città? Stiamo parlando comunque anni 70-80, capito? Sì, bene? Sì, io mi sono diplomato nel 70, perciò ho cominciato 70-80. A Milano è stata un'esperienza abbastanza, che venivo da Voghenza, perciò è stata un'esperienza diverso, abbastanza traumatica, ma non per l'orchestra, perché io l'orchestra erano bravissimi, ma proprio l'inserimento a Voghenza a Milano è stato abbastanza drammatico, anche perché una città che già allora, parlo degli anni 70-80, io avevo la macchina, mi ricordo sempre, sono andato la prima volta in macchina a Milano, che era una cosa allucinante. Quando scattavi il verde tutti suonavano, perché dovevi partire a razzo, già allora, in quel periodo lì, dovevi partire a razzo, se aspettavi un attimino diventavano matti. Perciò era una città già caotica, movimentata, che per me, che abitavo in questo paese, era abbastanza un po' particolare. Però dopo un po' mi sono trovato bene, perché anche lì ho trovato gente molto brava, Il direttore artistico, tra l'altro, era Sai Lee, che era un nome importante, il padre del direttore, che poi è venuto anche da noi a Bologna, di Sai Lee, il direttore della Scala. Questo era il padre che faceva il direttore artistico, una persona degnissima. Mi sono trovato benissimo. E quando sono andato via con Vento Bologna, quasi quasi, non dico che si mettesse a piangere, perché avevamo un rapporto di amicizia. Io ero un ragazzino, avevo 20 anni, pensavo non dire che... E lui invece era già affermato scrittore, compositore, musicista, pianista, però avevamo instaurato una specie di amicizia padre-figlio, molto bella, mi è dispiaciuto anche a me. Però sono arrivato a Bologna, come ho detto prima, un'altra orchestra più grossa, più, come si può dire, non dico più importante, ma quasi, insomma, l'orchestra sinfonica lirica, invece là facevamo solo musica da camera, più piccola, ridotta, orchestra più piccola. Qua invece l'orchestra grossa, abbiamo fatto tutte le sinfonie di questo mondo, quasi tutte le opere le ho fatte a Bologna, eccetera, eccetera. Poi sono arrivato anche terzo, per dirlo, parlando un po', che mi vergogno un po', ma lo dico, sono arrivato terzo a un concorso internazionale oboistico, perciò si vede che avevo delle qualità, si vede, che potevo fare. Concorso internazionale. Però sono sempre rimasto a Bologna perché potevo ambire altre cose. A Milano già ero in contatto per andare alla RAI, insomma sono arrivato a Bologna, c'era già la fidanzata, che era di queste parti, che poi è diventata mia moglie, e di queste parti, perciò figurati, via, tra Bologna, perfetto. L'equilibrio tra la musica e il cuore è stato Bologna, no. Quindi. Però non ho fatto male perché mi sono trovato benissimo. Questa orchestra, come ho detto prima, mi ha girato anche il mondo. Facevamo un mese all'anno all'estero, come ho detto prima, ho visto un paese che non avrei mai visto in vita mia. Abbiamo visto tutta la Germania, la Francia, la Finlandia, e il Giappone, che è quello che mi è rimasto nel cuore, perché sono andato 10 volte, Tokyo caotica ma controllata. Cioè, il bello di questa gente era che 12 milioni di abitanti, ma tutti metropolitana sopra e sotto, ma nessuno, tutti in fila, mettevi là, via, dentro, eccetera, eccetera. Quello che è rimasto anche a loro la prima volta è che arrivavano, si sedevano e dormivano. E si svegliano quando dovevano salire, dovevano scendere. Questo era un po' strano, come mai capitato, ma loro fanno così, non è che facevano, fanno ancora così. Vi sentivate degli ambasciatori della cultura italiana all'estero, sì, in questi momenti? Sì, eravamo così. Ci sentivamo questo qua perché eravamo molto apprezzati, perciò facciamo volentieri le nostre, facciamo 4 opere, 2 concerti, stavamo via un mese. E questo mese... Un mese molto intenso, immagino. Molto intenso, perché... Dover concentrare però, tutto. Era molto intenso, però abbiamo avuto modo anche di conoscere queste persone, personaggi molto, molto, molto, molto particolari, ma di una grande qualità, che è quella di tenerci in considerazione in modo incredibile. Ci sentivamo, come ho detto prima, dei fenomeni, ma eravamo... un'orchestra normale, insomma, sembravano dei fenomeni. Come ho detto prima, ci riconoscevano in metropolitana perché facevano le opere per tramite la TV, stranamente, perché giravamo con il nostro badge dove c'è scritto teatro, e loro pazzivano, fotografo, sono uno strumentista, non sono il cantante, niente, fotografo. Bene, questo è un po' per quello che riguarda il mio lavoro. Allora, mi hai parlato prima del Giappone, che ti era rimasto un po' nel cuore, quindi sono curioso di sentire qual è stata la tua esperienza come italiano in Giappone. Come italiano in Giappone, la prima volta era un po' strano, però è un mondo totalmente diverso, grattacieli, via vai spaventoso, cioè abbastanza, noi la trovavamo caotica di primo acchito. Come ho detto, invece dopo era tutto un caotico molto... molto equilibrato, un caos controllato. La mattina alle 9 andavano a lavorare tutti in metropolitana, però tutto controllato, cioè lavoravano, non so. Poi a Tokyo, non erano abituati a abitare a Tokyo, tanti lavoratori abitavano fuori, perciò arrivavano in stazione, andavano a lavorare e ritornavano indietro pomeriggio o sera, perciò era sempre un via vai, in quegli orari lì era micidiale, però ripeto, tutto controllato, non c'era mai un aiuto, fermi di qua, corri di là, no, tutto controllato. Bene, e poi abbiamo fatto le varie linee a Tokyo subito dagli ambasciatori, dove ci facevano conoscere, abbiamo anche l'imperatore venuto loro a sentire l'opera, ci ha messo tutti là, oddio chi arriva, l'imperatore, oh signore, invece persona molto, molto, molto umile, gentile nel rapporto con noi. Un pezzettino di voghiera portato di fronte al figlio del sole. Sì, eravamo di fronte al figlio del sole. Però bene, insomma, e poi come ti ho detto, teatri sempre strapieni, la gente là, il teatro, il biglietto costa molto, molto più di noi ci lamentavamo dei nostri, ma là costava una cifra. E mi dicevano i vari personaggi, i vari giovani, che è molto frequentato dai giovani il teatro, che risparmiavano un anno per prendere due biglietti. Perciò è una cifra. Però era anche un desiderio partecipare alla cultura, sì, magari anche importata loro, dall'estero. Sì, però. Sì, bravo, loro ci tenevano moltissimo, sì. E come ti ho detto, invece di andare in ferie risparmiavano per venire a sentire quando arrivavamo noi. Anche perché poi ci andavano anche i tedeschi, non è che ci andassimo solo noi in trasferta, tedeschi, francesi, c'erano tutti. Però quando arrivavo all'Italia era in modo un po', chissà perché, eravamo accettati in maniera molto, molto, molto cordiale, molto, eravamo sempre, per loro dovevamo sempre andare in festa, essere in festa, finita. Invece, vabbè, insomma, è stata un'esperienza bellissima, ripeto, mi è rimasta nel cuore. Questa zona, questo paese bellissimo, per me è importante, con delle cose bellissime, anche loro hanno una vecchia cultura spaventosa, a parte il fatto che i loro musei non sono come i nostri, parlando di museo, sì. Loro hanno un'anfora antica al centro della stanza, basta. Per quello che quando vengono da noi che trovano un piccolo, anche solo da noi che è il museo, diventano matti perché vedono delle cose che loro non è possibile avere, cioè non hanno una storia. Però hanno la capacità di costruire delle narrazioni su dei singoli oggetti. Qui abbiamo la tromba romana, abbiamo il balsamario. Bravo, siamo un museo dove vengono c'è in pochi. Museo appena schiavi un attimino. I kimono, non lo so, queste cose qua da noi invece, come abbiamo detto adesso, va bene. Qual è la tua opinione però su questa differenza? Cioè, secondo te che cosa c'è nel rapporto giapponese con l'arte e la cultura che lo rende così diverso? Ma cioè in che senso? Allora in Italia non ci sarebbe la fila per un'opera musicale come la vostra. Sì, come dicevi, non ci sarebbe un museo pieno per vedere solo un kimono. Volevo chiedere qual era la tua opinione. Ma niente, io ho sempre rispettato le esigenze, le culture altrui, cioè per me era una cosa, la prima volta ci sembrava una cosa molto strana, poi dopo vedendo com'era la loro situazione, la loro cultura, ci siamo adattati benissimo, rispettando quello che erano le loro situazioni. A parte il fatto che anche loro la domenica, nei giorni festivi, avevano le file anche loro per andare a vedere le loro cose. In vari musei, c'avevano anche lo zoo, per esempio, avevano uno zoo di Machiavara, che è questa zona dove c'è un teatro bellissimo, e alla domenica loro vanno a vedere o museo, o lo zoo, o l'opera, questa era la loro prassi. C'è proprio un rituale però settimanale, rituale, la cultura. Settimanale era quello lì. Durante il giorno tutti avanti e indietro a lavorare, basta, però sabato e domenica era come da noi, poi in grosso modo, non è che cambiasse molto, però ripeto, tutto controllato, tutto sotto controllo, tutto bene, eccetera, eccetera. Questo è un po' il rapporto che avevamo con questi personaggi che erano i giapponesi. Portando un po' avanti le lancette dell'orologio, sì. Il ritorno qui a Voghera e la tua attività come vice sindaco, sono curioso di come è stato il salto di il diventare... salto da musicista, che ho continuato chiaramente, a arrivare a fare... A fare così, come si può dire, a fare questo tipo, non dico di lavoro, ma di... Però è molto interessante proprio questo salto. Sì, poi musicista alla corte di Voghera. È una roba, cioè, le prime volte dicevo, ma insomma, questo... Invece poi mi sono appassionato, anche perché, come ho detto prima, il nostro territorio non sembra, ma ha delle cose che altri paesi non hanno, tipo questi scavi che non gli altri non li abbiamo fatti con noi. Per merito di un dottore, si chiamava Renzo Cirelli, insieme a Ottorino Baciglieri, hanno cominciato a sondare i vari terreni che una volta si trovavano a Fenia. E hanno cominciato questo percorso di scavi e dopo sono arrivati naturalmente quelli che erano preposto per trovare, per fare questo tipo di lavoro, ed è saltato fuori questo tipo di cose che abbiamo, museo romano, museo eccetera eccetera, insomma. E allora, sai, quando sei arrivato, ragazzi, adesso devo cambiare un attimino la mia testa, anche non solo musica, perché allora c'è solo musica, ma anche altre cose, e mi sono appassionato molto molto molto volentieri sia su questo personaggio, perché stranamente, ho detto prima, questo territorio aveva personaggi che non avremmo mai immaginato di avere, tipo questa persona che era una mezza soprano famosissima nel mondo, era sposato un conte qua di Vogenza, il nostro conte, che abitavano qua, sposato questo conte, e Verdi, che era la sua cantante prediletta, mezzo soprano, eccetera eccetera, avevano anche un'amicizia profonda, veniva qua anche lui a trovarla, perché era rimasta abbastanza isolata, nel senso che il marito non era più, come ho detto prima, non era più contento che lei girasse il mondo a fare questo lavoro, e lei era, gli dispiaceva. Cosa ha fatto? Gli ha fatto un teatrino, e lei si esibiva lì per gli amici o eccetera, o altri, o musicisti, perché Ferrara allora era importante che avevamo un teatro che funzionava benissimo quel periodo lì. E Verdi scriveva queste opere nuove, la Ida eccetera eccetera, e lei era la sua cantante prediletta, e lui, talmente italiano, come ho detto prima, abbiamo letto che ha scritto questa, non avrei mai creduto, non credevo mai che quella tedesca lì sarebbe stata la mia interprete ideale. Questo è lui, italianissimo. Per chi ci segue da casa, naturalmente stiamo parlando di Maria Wallman. Sì, di Maria Wallman, scusa. Di Maria Wallman non l'avrei mai creduto. Però, come dicevamo prima, è proprio una grande ironia della storia che il Verdi patriota si ritrova con una delle cantanti austriache. Austriache, che era la sua preferita. Vabbè, insomma, questa è parte... Però era importante che... Era qua, in questa zona, cioè non era né a Ferrara né a Bologna, era a Vogenza. Mm-hmm. Questa è una storia che è passata, sta passando un po' così, come una cosa, vabbè, sì, però è molto importante per me. E da lì è partita anche la banda, poi. Sì. La Filarmonica di Vogenza, come ho detto prima, che questi signori gli hanno fatto la divisa, gli hanno pagato gli strumenti, ed è cominciato questo tipo di filarmonica, questa banda a Vogenza, in questa maniera anche, perché non è che ci fossero, cioè quando mangiavano non andava bene, perciò comprare uno strumento era una cosa, o la divisa, eravamo un po' fuori, invece loro molto gentilmente hanno cominciato con questa situazione, pagando, cioè facendogli a divisa gli strumenti, e hanno cominciato la famosa banda di Vogenza, famosa nel senso perché è molto antica. Sì. Noi siamo abituati alle produzioni in massa di strumenti di abiti, ma ai tempi, nel 1850, sicuramente non era una cosa triviale. No, non era una cosa molto, molto così. Vabbè. E chiaramente poi ho fatto la mia, ritornando sempre al personaggio che è Roberto, mentre facevo la mia professione, come ho detto prima, ho intrapreso questa nuova attività, che era quella del vice sindaco assessore alla cultura, dove si è lavorato bene. Io ritengo che abbiamo fatto delle cose abbastanza importanti, come fanno tutti gli altri, non è che abbiamo inventato il mondo io e la signora Nea del Barbiere, però abbiamo incominciato a fare dei discorsi o delle ricerche particolari, come ho detto prima, una sull'aglio, che ha cominciato tutto il percorso dell'aglio, fino a quando è arrivato il giorno d'oggi come un elemento importantissimo per tutta l'Italia e per l'estero, anche che vanno anche all'estero con questo alimento importante dell'aglio, che per altri può essere una cosa abbastanza, perché c'è un odore particolare, per altri invece va benissimo. E però è partita questa situazione, e bene, sono contento perché è rimasto e si è approfondito. Volevo chiederti, dato che giustamente il riconoscimento del DOP inizia nel 2007 per poi completarsi nel 2010, volevo chiederti proprio questi anni tra il 92, se non mi sbaglio, tra il 92 e il 2007, com'è stato tutto il lavoro di costruzione piano piano del, di questo dell'immagine, della cultura dietro quest'aglio particolare? Ma ci abbiamo lavorato parecchio, perché poi con chi lo produceva, anche perché non è una cosa normale l'aglio allora, e con chi lo produceva, poi l'abbiamo portato dove analizzano questo cosa, e ci hanno detto che era un prodotto molto importante, non so perché, per la terra dove veniva seminato, eccetera, servisse una situazione che portava un aglio a un aglio molto importante, molto né troppo potente come gusto, né troppo, era ideale per la cucina. Abbiamo fatto delle ricerche con questi personaggi e siamo arrivati a, tutti gli anni facevamo questa fiera, chiamiamola fiera, fino a quando è arrivato questo nel 2007, che io naturalmente c'erano altri, è arrivato ad essere un prodotto considerato importante, anche perché il Mazzoni ne produce anche lui un bel po' di questo. Ma ci sono tutti i vari contadini della zona che hanno incrementato molto questo tipo di cultura e producono ancora molto bene, cioè è diventata una cosa molto importante e mi fa molto piacere, ecco. Questa è stata un po' la ricerca, tutti gli anni abbiamo sempre assistito dal 92 a fare questo tipo di feriera, questo tipo di fiera, questo tipo di raccolta, insistendo con chi produceva di andare avanti perché era una cosa importante, e finché si è arrivati al riconoscimento ufficiale di questo prodotto. Bene, questo è stato un po' l'avvio, però mi piace perché è stata un'intuizione nel periodo, non so perché, non mi ricordo neanche sia partita questa storia, questa cosa qua. Ma è partita da voi del comune o è partita dai Mazzoni? No, Mazzoni non c'era ancora quando siamo entrati noi, io, l'Aneda, non era qua in zona assolutamente. Partita da noi praticamente questa cosa, si è sviluppata, come ho detto prima, in una maniera molto importante. Bene, questo è un po'. Quali erano i vostri pensieri più importanti, più pressanti al Comune di Voghera negli anni 90? Cioè, arrivando verso il nuovo millennio, qual era la vostra preoccupazione? Era quella di valorizzare intanto questo luogo, valorizzare il museo, che avevamo cercato di fare il museo con questi personaggi, valorizzare chi portava avanti. Io avevo fatto una ricerca, ho incontrato Graziano. Alessandro, da lì abbiamo incominciato a dire: cosa ne pensi tu a venire a sviluppare? E da lì è cominciata tutta la storia del museo, dandogli sempre più importanza, cambiando di sede, perché la prima era di là, l'abbiamo portata qua, cioè è stato un lavoro non indifferente. La sala delle vigne, me la ricordo ancora, anche quella è stata portata avanti in quel periodo. La sala delle vigne, che era anche lì un magazzino per trattori, ripeto, c'era il catrame che copriva tutte queste figure, siamo riusciti, l'abbiamo comprata perché non era del comune, l'abbiamo comprata e abbiamo fatto la famosa sala, cioè l'abbiamo fatta restaurare chiaramente in un modo molto bello perché è una bellissima sala, e abbiamo fatto questa, ed è saltato fuori questa sala delle vigne bellissima. In più c'è il museo Voghenza di, come si chiama, il museo del modellismo. Quello del modellismo, sì. E gli abbiamo fatto fare un modello, perché c'è il modellino dei giardini che esistevano in questa villa, ed è una cosa magnifica, insomma. E l'hanno fatto benissimo, è stato un modello molto, ancora lì mi sembra, modello bellissimo, importante, perché spiegava com'erano i famosi giardini di... Sala della vigna e musica, le incisioni. Sì, abbiamo fatto tante cose, abbiamo inciso abbiamo fatto tante incisioni, che adesso non mi ricordo neanche che tipo di materiale, perché per piccoli gruppi, per grandi gruppi. L'ultima che mi ricordo, quando io ancora ero assessore, che abbiamo fatto, siamo andati con un gruppo piccolo, sempre in Giappone, per non parlare mai del Giappone, avevamo i filarmonici di Bologna, facevamo musica da camera all'interno del teatro, siamo venuti a fare un paio di esecuzioni qua, di prove generali prima di andare qua. L'abbiamo sempre considerato una sala magnifica e tutti quelli che venivano a ascoltare o a fare musica lì dentro hanno detto che era una sonorità molto bella, molto bellissima. Anche perché un pochino nel suo piccolo questo è restituire alla Sala delle Vigne una delle sue funzioni originali, perché è un'acustica un po' troppo buona per essere solo una stanza per mangiare, è sostanzialmente. Buono. Quindi probabilmente era stato anche un teatrino. Per tempi. Me sì. O comunque spazio di musica. Spazio di musica anche allora. È troppo bella da ascoltare quando uno fa musica lì dentro. Perciò c'è qualcosa che l'hanno fatta in maniera che se potesse essere di ascolto molto, molto importante. Quello lì è un'altra cosa che abbiamo cominciato con i vari esperti chiaramente della situazione, dei restauri, anche quella è partita, quella moderna Sala delle Vigne, bellissima, dove si visita come una cosa a Voghera, che è un paesino piccolissimo, abbiamo anche questo, la fortuna di avere questo. Un patrimonio UNESCO. Patrimonio. E poi, ecco, mi piace dirlo anche per la volontà dei personaggi che hanno fatto gli amministratori in questo piccolo comune, che ci tenevano tutti a fare questo tipo di percorso. Però c'era proprio la coscienza di noi, il nostro valore, la cosa che ci distingue è la cultura. Sì, bravo, e di valorizzare questo. Cioè, o lo valorizziamo e mettiamo le nostre risorse, anche se limitate qui, sì, o so. Il comune si estingue. Bravo, se no. Ti ricordo anche il centro civico di Gualdo, che avete iniziato la ristrutturazione del suo. Già, anche quello. Cioè, abbiamo fatto importante, delle cose abbastanza importanti, come farebbero tutti, penso, nei vari comuni. Ma qua avevamo proprio il materiale per fare questo tipo museo, tipo aglio, avevamo proprio la situazione che era importante per fare queste cose. Però direi non solo la materia prima culturale, ma anche umana. Sì. Questo è molto importante. Quella sono d'accordo, anche perché cioè, la materia umana è quella che ha portato a fare e a scoprire queste situazioni. Ripeto, ci sono tanti vari personaggi di varie antiche, come ho detto prima, il dottor Renzo Cirelli è stato uno dei primi a portare avanti questo discorso degli scavi, dal giro di notte nei vari terreni a sondare, insieme a Torino Bacilieri, un altro personaggio del comune che ci teneva moltissimo a queste cose, ed è partita tutta la storia degli scavi romani che abbiamo qua in questa zona qua. È la storia di Voghenza, Voghenza vuol dire vogare, arrivavano i romani da queste parti qua. Il primo vescovo è stato qua, non a Ferrara, sì, esatto. Tra l'altro, perciò era una zona importante allora. Allora, ti lancio la palla più difficile. Sì. Era una zona importante allora. Oggi nel 2026 e mettiamo... Mi sono dato come data un po' meno simbolica, sì, sì, il 2035, sì. Che è il seicentenario dell'inizio di Berriguardo. Cosa ti aspetti di vedere a Voghera e Voghenza? Ma mi aspetto di vedere che ci saranno senz'altro personaggi che come noi ci tengono ad esaltare le nostre cose. Spero di vedere delle cose, non so, io sono avanti con l'età, se riesco a vedere, ma spero che ci siano personaggi che valorizzano sempre di più questo ambiente perché merita, insomma. E senz'altro ci saranno, perché tutti quelli che si sono succeduti in queste amministrazioni hanno tutti dato il loro per portare avanti queste situazioni che abbiamo avuto. Però dici che questo è il valore più importante da dare ai sindaci di domani, alle persone che lavoreranno per il comune, sì. O che in un modo o nell'altro lavorano qui nella cultura, è abbi coscienza del territorio in cui sei. Quello senz'altro. Non dimenticare da dove non viene. Non dimenticare quello che è stato e quello che sarà, ecco. Questo è importante, molto importante. Ma penso che avranno questo tipo di cultura per portare avanti questi discorsi che abbiamo portato avanti in tempi antichi. Noi, il comune è nato nel 60-61, c'è cioè un comune, mm-hmm. comune molto giovane da quel lato lì, e ancora esiste, insomma, tutte le situazioni del caso, un po' così, poco là, ancora esiste e ancora si porta avanti questo tipo di situazioni che si erano create. Però tra l'altro nel 2035 il comune festeggerà i tre quarti di secolo e i 600 anni di Beriguardo. Tra l'altro. Quindi sembra una... io ce l'ho in mente proprio sì. per questa combinazione simbolica. No, ma è vero, cioè, una combinazione importantissima. Spero che la gente, chi sarà amministratore, senta il, come si può dire, il bisogno di fare le cose importanti. Spero, l'onere e l'onore. Sì, speriamo in bene, insomma. Ecco, questo è un po' la cosa generale della mia situazione in questo comune, che delle volte mi dicevo basta, non ce la faccio più, vado a vitar via, invece poi dopo non sarei mai stato capace di stare, come ho detto prima, ho lavorato a Bologna per 40 anni quasi, non mi sono neanche spostato dal mio paese, perciò ci tengo a questo comune, a questa amministrazione e a questo luogo. Perciò vabbè, insomma, è importante per me questo luogo. Mm-hmm. Spero, ripeto, che lo considerano sempre chi verrà, come abbiamo detto prima, porti avanti questa cosa che delle cose che abbiamo in questo territorio, spero che ci tengano anche loro tanto. La situazione, noi ci abbiamo tenuto un bel po', abbiamo, ripeto, fatto i musicisti perché c'era una vena musicale importante qua, mm. che ci hanno indirizzati, non so quanti, adesso Mario lui sa perché è venuto un pochino prima di me, perciò conosce un po' tutti. Io, ecco, volevo parlare di un'altra cosa molto importante per me e per il territorio, secondo me è lo sport, che abbiamo nel comune un paio, tre campi da calcio, e li abbiamo sfruttati creando un settore giovanile che si chiamava Etruschia, dove abbiamo lavorato in modo incredibile anche lì, naturalmente tutto volontariato anche lì. Mm-hmm. E in 4, 5, 6 ragazzi, allora ragazzi della mia età, abbiamo costruito questa cosa e abbiamo fatto questa filiera tutta completa, dai pulcini arrivando alla prima squadra, il senior, con tutti i ragazzi, con tutte le domeniche eravamo impegnati alla mattina e il sabato impegnati a fare le partite in giro per l'Emilia. Devo dire così perché andavamo nel bolognese, siamo andati a far giocare, che i vari tornei comprendevano tutta, non solo la nostra zona, ma anche fuori. Perciò abbiamo fatto anche lì un lavoro, secondo me, molto importante, perché i bambini che vedo, cioè i bambini, adesso che non sono più bambini, qualcuno mi ferma ancora per stare, ah, ciao! E io dico, sì, va bene, ciao, dico, chi sei? Ma no, io ero il giocatore, ero l'allenatore dei bambini. Mi fa piacere perché ancora c'è un rapporto di amicizia, è rimasto in questo settore, insomma, un altro settore dove, siccome non ne avevo abbastanza, ho fatto anche quello lì, oltre che... Anche perché immagino una realtà piccola come Voghiera, alla fine ci si ritrova, ci si rivede, sai, l'essere comunità è una cosa molto più forte che non potresti avere in altri posti. Anche questo qua per me è stato una cosa importante per il territorio, lo sport. Sport è stato molto importante, anche perché si diceva sì, togliamo questi ragazzini dalla strada, va bene, ho detto, ma in effetti poi era vero alla fine. I genitori, chiaramente dobbiamo anche, ho ringraziato e dobbiamo ringraziare anche i genitori perché ci riportavano, insomma. Mm-hmm. Avevamo tutto il campo di Ducento, avevamo il campo di Voghenza, avevamo anche Montesanto, abbiamo fatto. Eravamo tutti impegnati, dovevamo anche prendere i campi in affitto fuori perché non ci stavamo con tutti questi ragazzini, non ci stavamo tutti nel nostro territorio. Siamo andati a Runco, siamo andati a Gambulaga, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, è stata un'altra cosa importante per me aver costituito e fatto anche questo tipo di lavoro. Com'è stato vedere la fine della Prima Repubblica e l'inizio della Seconda da Voghiera? Da Voghiera, siccome io adesso non lo dico, non lo posso dire, ero di un certo, di una certa, di un certo partito, che non dico, però è stata una tragedia ecumenica quello che è successo, perché ognuno di noi nel nostro piccolo credeva o credeva in certe cose, certe cose, invece è crollato il mondo, si è crollato il mondo addosso e abbiamo dovuto rifare con la testa, rifare tutto un altro discorso, perché è cambiato il mondo praticamente. Ed è stato per me un disastro, che credevo in certi valori e in certi personaggi, perciò per me è stata una battosta. Anzi, alla sera, quando parlavano per televisione, dico, ma non sto mica bene con mia moglie, dico, guarda che mi sta venendo... cioè, ero talmente, come si può dire, preoccupato, disgustato di questa cosa, che per me era stata una roba indecente. Però poi dopo ci siamo riavuti con altre cose, perciò... Anche perché alla fine l'esperienza della lista civica, che se ho capito bene negli anni 90, così, va a sostituire per perché, appunto l'equilibrio di centro-sinistra, bravo, deriva anche un po' da questo. Sì, anche questo. Il cambiamento tellurico nella politica italiana. Bravo. È cambiato, prima era proprio uno schieramento e basta. Invece adesso non è più uno schieramento, è una adesso se tu hai la mia idea facciamo questo tipo di lavoro, non più se tu hai la mia... il mio pensiero politico, è proprio l'idea che conta, il volere di fare certe cose. Ecco. È cambiato un po' tutto il mondo, non più a settori, ma c'erano una volta c'era IC, PSI, DC. Le zebrature era questo, e le logiche di bilanciamento. No, no. Era molto bello perché erano battaglie anche paesane o da bar, insomma, che tu avevi un'idea, l'altro aveva un'altra, si discuteva molto amichevolmente, poi alla fine che si andava a mangiare insieme dopo, non è che... Però era comunque un fattore di aggregazione, sì, la politica adesso non è più un fattore di aggregazione. No, no, purtroppo no, ma allora era. Io ho fatto anche delle feste politiche, anche perché... Tipo la festa dell'unità? Dell'avanti, per essere chiari. E era un'aggregazione, tutti venivano, o che fossero democristiani, che fossero... E noi viceversa andavamo nelle loro feste, cioè era un'aggregazione, come hai detto te, del comune, delle persone che abitavano questo territorio. Non facevano grande differenza quando si doveva mangiare o si doveva discutere. Quando si doveva discutere lo discutavamo. Però comunque in maniera abbastanza civile. No, no, no. Come ho detto prima, poi eravamo amici. Alla fine siamo rimasti sempre amici. Come ho detto prima, e ripeto, se andava a mangiare nelle loro feste, loro venivano nella mia. Insomma. È un altro tipo di discorso, adesso non è più possibile. Nonostante che sia cambiato tutto, ma non c'è più quella, come si dice, quella volontà di fare, non dico di fare politiche, ma di seguire una certa linea, non c'è più. Vabbè, insomma, ma va bene così, Però quindi l'ideologia comunque rappresentava comunque un fattore di non tanto di aggregazione quanto di indirizzo per pensare e costruire il futuro. Sì. Adesso si costruisce il futuro in maniera completamente diversa. Allora sì, questo il concetto è questo qua. Vabbè, io sono anziano, perciò penso ancora a quei vecchi tempi. Al sol dell'avvenire. Adesso dirigo la banda, va bene così. A proposito, sì, non so se l'ho detto, ma... nato in pensione, sono venuti a casa mia questi ragazzi a chiedermi, ma perché adesso che sei in pensione non fai niente secondo loro? Non vieni a... E da lì è cominciato questo tipo di rapporto con la banda. Ho voluto dare, ripeto, l'ho detto anche nel libro, quello che la banda ha dato a me, cioè mi ha indirizzato, e io adesso do per quello che mi ha dato... da dato quell'ambiente alla mia professione, insomma. Così, ecco, questo finché posso, finché ce la faccio, vado, anche perché tutti si sono contenti perché facciamo musica anche musiche classiche che prima non è che fossero portati per fare, facciamo anche musica, cioè le sinfonie di Verdi, di Rossini, naturalmente rapportate per il gruppo che c'erano, ci sono gli archi chiaramente, tutti i fiati, ci sono tutte trascrizioni che sono la stessa cosa che senti come concerto sinfonico, ma fatto da strumentisti, solo fiato. ovviamente loro abbiamo portato anche questo, questa novità nella banda, tutti contenti, finché mi seguono siamo a posto. Bene, ti ringrazio per la tua voce, direi che questo... Io cioè direi che... Se vuoi aggiungere qualcos'altro, naturalmente. No, sei stato molto chiaro, molto conciso. Abbiamo affrontato delle cose bellissime, sono venute fuori... Sì. Anche il pezzettino di Voghera di fronte all'imperatore del Giappone, quella è una chicca. Quello lì era una cosa importantissima. Penso, c'ero per dirti che la prima volta che sono andato via, io avevo degli amici anziani che li portavo con me la domenica, perché loro giravano solo in bicicletta, persone anziane del mio paese, e allora sapevano che io andavo alla partita. Allora li prendevo su, li portavo là, gli pagavo un bicchiere di vino, loro stavano là in compagnia divertiti, si divertivano. Avevo questo tipo di rapporto che con gli anziani di allora. E ti dirò che la prima volta sono andato in Giappone, sono stato via un mese, questi anziani quando sono arrivato sono venuti a casa mia a trovarmi. Mm-hmm. Ah, finalmente, cioè è stata un'altra soddisfazione. Sì. Pensa a te, allora i rapporti erano molto... molto importante, l'educazione, c'è una grande educazione per i nostri anziani e per quello che era l'ambiente. Ecco. Va bene, con questo concludiamo questa splendida intervista. Io spero di essere stato chiaro. Ecco. Salto.